Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. Allo zoo comunale, Primo Fini, che dice: ma come, se appuro che veramente mio genero è proprietario della casa a Monte Carlo, mi dimetto. È un anno e mezzo che la racconta. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, era che è primavera. Vengo anch'io. Ma chi è che si è riscoperto improvvisamente a primavera? Giulio Tremonti ha proposto adesso che non ci possano essere più le ganasce fiscali, capite, per Equitalia. Ma dov'era per 18 anni Giulio Tremonti quando ci spiegava il contrario? Dov'era? È un alias, è un omonimo. Vergognati. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?